America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. And to make sure that America is still a place where tomorrow is always better than yesterday. Marco Rubio, 41 anni, ha parlato alla convention repubblicana e ha lasciato il segno sulla scena politica nazionale. Ours is a nation like no other. A place where great journeys can be made in a single generation. Julian Castro, 37 anni, ha mobilitato la base, il keynote speech alla convention democratica e direi ha svolto lo stesso ruolo di Rubio. Ma c'è stato un aspetto bipartisan, e cioè tutti e due i partiti hanno lanciato dei giovani. Ecco, questa è una caratteristica straordinaria degli Stati Uniti. Io vi ho menzionato questi due, ma ce ne sono stati molti altri che sono saliti al podio. E soprattutto posso ricordarvi un altro caso. Sentite. America, tonight, if you feel the same energy that I do, if you feel the same urgency that I do. Barack Obama, l'avete riconosciuto, nel 2004 era uno sconosciuto 42enne, 43enne dell'Illinois che cercava di conquistare il seggio senatoriale, poi è diventato presidente. Insomma, a queste convention americane c'è spazio per i giovani e proprio a Charlotte c'era un giovane italiano che si è messo in luce, Matteo Renzi, sindaco di Firenze, ma che sembra incontrare qualche problema da noi proprio per il suo dato anagrafico. Renzi ha visto la convention con Kerry Kennedy, ha partecipato a vari incontri con sindaci, una tavola rotonda, ha avuto un colloquio con John Podesta, capo del gabinetto di Bill Clinton, capo della transizione di Obama, e poi è rientrato in Italia. Ecco, a Charlotte però ho intervistato Matteo Renzi, abbiamo chiacchierato a lungo e vi propongo oggi questa chiacchierata nel contesto americano, perché domani da Verona Renzi parte con il suo camper per questa avventura verso le primarie che si dovrebbero tenere nel contesto del Partito Democratico. Approfitterei anche di questa trasmissione per riprendere un esperimento di social radio che abbiamo fatto in passato, perché qui parliamo di partiti leggeri, partiti pesanti, di top down, di bottom up, insomma di tematiche americane che hanno una loro proiezione politica sull'Italia. Vorrei sapere cosa ne pensate su Twitter, @ Mario Platero, scrivete e ne parleremo anche con un paio di colleghi in trasmissione, ve li presenterò più tardi. Sentiamo Matteo Renzi. Che emozione c'è stata? Beh, l'emozione è quella di chi riconosce in questi eventi la manifestazione più simbolica del grande valore della democrazia americana. Quindi un'esperienza molto bella, molto affascinante, suggestiva, con tutti i limiti anche naturalmente che una politica talvolta basata troppo sull'immagine produce. Però grandissima emozione e naturalmente anche un naturale paragone con ciò che avviene dalle nostre parti, dove facciamo fatica ad accettare l'idea che si possa fare le primarie. Qui sono la regola del gioco perché consente ai cittadini di scegliere e quindi consente ai cittadini di fare politica. Matteo Renzi, avete sentito questo stralcio dell'intervista, ve ne farò sentire degli altri dopo, ma ho con me in studio Paolo Valentino e Cristian Rocca, Valentino inviato del Corriere della Sera, Cristian del Sole 24 Ore, per discutere proprio di questa tematica, vi dicevo. E dunque comincio proprio da direi dal punto focale, perché in America c'è questo spazio ai giovani e da noi invece c'è molta più fatica. Cristian. Intanto qui c'è una tradizione per questa cosa. Io ricordo aver visto le ultime convention negli altri cicli elettorali e se si guarda il programma della convention di 4 anni fa e di 8 anni fa di entrambi i partiti e quello di quest'anno, c'è una differenza proprio pazzesca di uomini. 8 anni fa per quella repubblicana c'erano Schwarzenegger, Bloomberg, tutti i busciani, questa volta non c'erano, e così anche dall'altra parte. E questa è la caratteristica principale del modello americano. C'è un cambiamento, il cambiamento avviene nei fatti, a un certo punto la gente cambia mestiere, abbandona la politica, non è un mestiere per la vita. Ecco, c'erano però anche i vari Barney Frank che sono alla Camera da moltissimi anni. C'è anche la tesi secondo cui nel momento in cui tu riesci a entrare alla Camera e devi avere il mandato rinnovato ogni 2 anni, quindi è una corsa sempre molto stretta, non importa, perché una volta che sei dentro poi magari riesci a avere 10, 15 mandati e quindi a restare per 20, 30 anni alla Camera. C'è una differenza tra, diciamo, Paolo, il mandato legislativo e quello esecutivo? Una differenza sicuramente c'è, anche se il ricambio è un dato fisiologico anche al Congresso. Probabilmente c'è una parte dei congressisti, diciamo, di lunga durata, però c'è una percentuale fisiologica di ricambio, avviene ad ogni elezione, perché c'è sempre, appunto grazie al meccanismo delle primarie, c'è sempre la possibilità del ricambio, c'è sempre la possibilità di un insurgent, di un ribelle che corre contro l'establishment del partito. E questo è un dato di fatto che si riscontra sia a livello dello scontro legislativo, cioè nelle elezioni per il Congresso, sia a livello presidenziale. Ecco, top down, bottom up. Sentiamo cosa ha da dire Renzi su questo. Da questo punto di vista noi abbiamo molto da imparare. Poi nel mondo della politica la preoccupazione è anche che se tu rovesci la logica del top down, è naturale e fisiologico che i leader che sono lì da sempre perdono ogni tipo di potere, e infatti credo che questa sia una delle grandi sfide sia a destra che a sinistra. Ecco, perché in Italia non riusciamo ad inserire questo bottom up, che peraltro sembra che gli italiani vorrebbero tutti? Alla base c'è un diverso funzionamento e una diversa organizzazione del consenso politico. In Italia ci sono i partiti, in America no, perché il Partito Democratico in realtà non esiste, il Partito Repubblicano in realtà non esistono, sono dei comitati elettorali che organizzano le primarie. Questa è la differenza, proprio è strutturalmente, istituzionalmente il modo di organizzare il consenso politico. Da noi invece ci sono i partiti che fanno la mediazione tra l'elettorato e le istituzioni. Ecco, è il partito pesante contro il partito leggero. Noi non abbiamo ancora questi partiti leggeri. Dovremmo avere partiti leggeri? Io penso di sì. È stato il tentativo di Veltroni con il Partito Democratico, poi in parte fallito. E poi vabbè, a destra c'è invece un altro tipo di partito, che è quello, diciamo, di proprietà dell'ex Presidente del Consiglio, e quindi è diverso. Però è chiaro che questa è la direzione. Paolo? Io direi partito da alleggerire, perché il partito leggero comporta una democrazia strutturale dal basso, dove le cariche elettive sono a tutti i livelli, anche lo sceriffo si elegge, appunto, lo eleggono i cittadini nella democrazia americana, e questo consente il partito leggero. Ecco, scusa Paolo, spiegala questa cosa, perché in America si vota su tutto. Come funziona questa democrazia americana dal punto di vista del voto? Funziona appunto dal basso, nel senso che qualunque carica elettiva, lo sceriffo, il procuratore, il sindaco, l'assessore, il giudice, per qualunque di queste cariche occorrono delle primarie, si fanno delle primarie, qualunque cittadino può presentarsi, può spiegare agli elettori il proprio programma, il perché lui vuole concorrere a quella carica, e quindi è la gente poi che decide se eleggerlo o meno, cioè non c'è la mediazione del partito. Partiti leggeri, partiti pesanti, elezioni dirette anche per lo sceriffo. Bene, twittate, spero, @ Mario Platero, fateci sapere cosa pensate di questo dibattito, delle dichiarazioni di Renzi. Sentiamolo ancora. È chiaro che chi sta lì come presidente D'Alema da tanti anni, a mio giudizio, ha già dato quello che poteva dare. Può continuare a dare una mano come esperienza, come suggerimenti, ma non con un ruolo di prima linea. In America funziona così, dopo un po' lascia spazio ad altri. Ecco, è vero che in America gli anziani si ritirano, o c'è un ruolo per gli anziani nella politica americana? Certo che c'è il ruolo di padre nobile. Abbiamo visto alla convention democratica di Charlotte quello che ha fatto Bill Clinton, quello che ha cercato di spiegare agli americani che l'hanno votato due volte, lo hanno amato, lo amano ancora, che l'attuale presidente è quello, un uomo giusto per far uscire l'America dalla crisi. E i repubblicani hanno fatto la stessa cosa con John McCain, che era il candidato dell'altra volta. Non devono scomparire ovviamente dalla parte, che poi McCain è comunque senatore, e John Kerry per i democratici probabilmente farà il segretario di Stato se Obama dovesse decidere di cambiare Hillary Clinton. Quindi un ruolo ovviamente c'è, non vengono messi in pensione. Sentiamo di nuovo Renzi. La scommessa sui giovani è una scommessa che la politica americana sta facendo, ma non solo la politica americana. Da noi una persona di 40 anni è considerata un bambino, di qua a 40 anni uno si prende delle responsabilità, ma anche in Germania, penso ai vertici della Bundesbank, penso ai vertici di alcune grandi città europee. La sfida è quella di riuscire a far capire che questa partita non riguarda Matteo Renzi o qualcun altro come lui, ma un'intera generazione che però deve avere il coraggio di mostrare la propria credibilità e la propria capacità di raccontare un'Italia diversa. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno, Taylor Swift contro il cancro. La settimana scorsa, in un evento della campagna Teleton, la cantante country ha presentato un nuovo brano che affronta il tema della battaglia contro i tumori. Gli incassi delle vendite saranno donati in beneficenza di Taylor Swift, Ronan. I remember you bare feet down the hallway. I remember your little laugh. Race cars on the kitchen floor, plastic dinosaurs. I love you to the moon and back. Da New York è tutto. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going.